Vi presentiamo ora Eclettica. Le trasmissioni proseguono ora a diffusione regionale. Spettacolo di cartoni animati. Raise your hands. Without the attitude. The first time. È la seconda parte di Eclettica in compagnia di Giulio Caperdoni. Giulio Caperdoni che vi ricorda il suo indirizzo di mail giulio@radiorockfm.com da utilizzare per scrivermi direttamente, ma anche nel caso vogliate essere parte della lista nera di questa trasmissione, che non vuol dire altro che poter ricevere direttamente nella propria casella di posta la playlist, ovvero sia l'elenco dei brani, dei film e delle letture che costituiscono Eclettica. Eclettica che va in onda tutti i giorni tra le 19 e le 20 sulle frequenze di Rock FM e che sta per lasciare lo spazio ad una cover di Madonna. Però prima di Madonna vi devo ricordare che vi siete ascoltati in sequenza gli Holy Fuck con Lovely Allen e poi Dead Meadow con I'm Gone. Una cover di Madonna, sì, estratta da A Slice of Heart, il nuovo album su Full Time Hobby in uscita l'8 di marzo da parte di Michael Middleton, una metà dei due Arab Strap. Dopo il suo album dell'anno scorso, A Brighter Beat, esce quindi con il già citato nuovo album dal quale vado ad estrarre questa cover di Stay. You make my life much brighter. You're always on my mind. You make my load much lighter. True love is hard to find. Sometimes I feel I have to get away. I change my mind when I look in your eyes, and when those clowns come in and try to darken my day, I'll always want you to stay. And deception, yeah, I was losing my way. You gave my life some direction, and now I'm ready to say, I know there's bound to be some hard times ahead. I'd be a fool to believe, but if you'd go, I'd think of dying instead. I'll never want you to leave. You'd be back for more. Let's leave the past behind. True love is so hard to find. I'll always want you to stay. Facciamo una cosa molto semplice. Viviamo vite troppo di corsa, troppo piene di stimoli, continuamente distratti dal lavoro, dal telefono, la televisione, i giornali, da quelli che ci vengono a trovare. Siamo sempre di corsa, sempre di corsa. Non ci fermiamo. Chi si prende più degli spazi vuoti, del tempo per il silenzio? La sera al bambino gli danno da mangiare, lo mettono un po' davanti alla televisione e poi a letto, perché questi vogliono vedere un film, quelli vogliono andare dagli amici. Sarebbe così semplice dire: fermi tutti, stasera si va a vedere le lucciole. Non è così complicato, non è una congiura, siamo noi a metterci nei guai. Capisco la congiura del consumismo, che è una macchina che ti fagocita, ma qui non c'è nessuna congiura, sei tu. Tu che puoi scegliere se andare in pizzeria o se portare il bambino a vedere le lucciole. Onestamente, Folco, questo mondo è una meraviglia. Non c'è niente da fare, è una meraviglia. E se riesci a sentirti parte di questa meraviglia, ma non tu, con i tuoi due occhi e i tuoi due piedi, se tu, questa essenza di te, sente di essere parte di questa meraviglia, ma che vuoi di più? Che vuoi di più? Una macchina nuova? Questo era ancora La fine e il mio inizio, di Tiziano Terzani. People, I have an important announcement. I have just perfected an acid-firing super drill, which can cut through anything. It is cool. It's right there, just outside of the dome. I'll start with you. If you start with me. We can start together, maybe start a family tree. Like a couple of words starting with the same letter. I want to lay the ring with you. I want to sound clever. We don't quite fit. We don't really rhyme. But we got a good meter going when we grind. We slant to the beat. And we slant to the melody. It feels like we fit when we're dancing on MTV. Eclettica, stagione numero 14, settimana numero 15, volume numero 4. Indice: Lady Hawk, OK, Clinic, The Mountain Goats, Hollow Blue, George Pringle, Holy Fuck, Dead Meadow, Malcolm Middleton, A Rifare Madonna, Collections of Colonies of Bees, The Pterodactyls, assieme a Kimi e Dawson. Cari amici, il vostro programma è terminato. Vi diamo appuntamento a domani alla stessa ora. Cari amici, il vostro programma è terminato. Arrivederci.